Con Michele Munafò, curatore del rapporto ISPRA 2019 sul consumo di suolo in Italia. Michele, ben trovato. Buongiorno. Il rapporto è stato presentato pochi giorni fa, cosa ci dice? Il rapporto ci dice che il consumo di suolo continua ad avanzare nel nostro paese. Sono anni che si parla di arrestare, limitare, contenere questo consumo di suolo, ma di fatto sembra che le norme, le politiche, le azioni siano molto inefficaci. Nell'ultimo anno abbiamo registrato altri 51 chilometri di superficie che erano fino al 2017 agricole o naturali e che nel 2018 sono diventate artificiali, cioè edifici, infrastrutture, cantieri, trasformazioni che hanno fatto perdere la funzione di questa risorsa ambientale fondamentale. Tutto questo mentre invece di contro la popolazione diminuisce. Sì, il paradosso è proprio questo, che in gran parte del territorio e sicuramente a livello nazionale la popolazione non sta crescendo, anzi diminuisce e gli scenari sono anche problematici perché ci dicono che da qui al 2050 noi perderemo molta popolazione e allo stesso tempo ricordo che noi ci siamo impegnati, come tutti gli altri paesi che aderiscono agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, la cosiddetta Agenda 2030, ad allineare il consumo di suolo alla crescita demografica, ovvero l'obiettivo che ci poniamo, come paese e come Nazioni Unite, è proprio quello che nei posti, nei luoghi dove la popolazione non cresce, il consumo di suolo non dovrebbe crescere, anzi essere allineato alla decrescita demografica, in questo caso quindi addirittura dovremmo paradossalmente recuperare terreno. Tutto questo dovrebbe avvenire entro il 2030 e quindi siamo sicuramente molto lontani dal raggiungere questo obiettivo, lo sforzo da fare è importante e dovremmo urgentemente avviare delle azioni concrete ed efficaci per raggiungere questo obiettivo. Il fenomeno riguarda principalmente le aree urbane, per le città Roma in testa, per le regioni il Veneto e anche aree protette e vincolate o a pericolosità idrica o sismica. Sì, il consumo di suolo di fatto avanza un po' dovunque sul territorio. Oggi noi registriamo però un'intensità maggiore nelle aree già molto compromesse, ad esempio nelle aree urbane. Lì la pressione è ancora più elevata su quelle aree aperte, le aree verdi, le aree naturali residue spesso all'interno di aree urbane che sono però importantissime per la qualità della vita, per l'adattamento ai cambiamenti climatici, per in qualche modo rendere le nostre città più in grado di meglio ai cambiamenti in atto e anche ridurre la pericolosità idraulica dei territori. Bene, queste sono le aree oggi più aggredite nel nostro territorio. Ogni ettaro di aree verdi noi perdiamo, abbiamo perso in un anno 24 metri quadrati. Quasi la metà del consumo di suolo si concentra nelle aree urbane. Questo è un dato preoccupante che dovrebbe farci riflettere su che cosa dovremmo fare per tutelare questo suolo importantissimo. Anche in altre zone particolari del nostro territorio il consumo di suolo avanza nelle aree a pericolosità idraulica, nelle aree a pericolosità sismica e diafana, avanza anche se in misura decisamente minore anche nelle aree protette. Le aree protette hanno sicuramente una funzione importante di tutela del nostro territorio e in gran parte questa tutela funziona anche se ci sono alcuni casi di consumo che ancora avanzano, anche in queste aree. Tra i danni principali c'è quello dell'aumento delle temperature, ma anche un danno economico per la perdita dell'ecosistema. Sì, il suolo, quando noi perdiamo il suolo, perdiamo soltanto una risorsa ambientale, perdiamo anche tutte le sue funzioni, quelli che sono i cosiddetti servizi ecosistemici di questo bosco. Il suolo ci assicura la produzione alimentare, la produzione di biomassa, la regolazione dei cicli naturali, l'infiltrazione dell'acqua, la riduzione delle temperature. Le nostre città sono sempre più calde, in media 2 gradi in più abbiamo d'estate nelle città rispetto alle zone meno urbanizzate. Tutto questo ha anche un costo economico perché noi dobbiamo risolvere in altro modo quello che il suolo ci dava gratuitamente, sostituire questi servizi ecosistemici. E noi abbiamo provato a fare una stima e questa stima ci dice che a causa delle trasformazioni degli ultimi 6 anni paghiamo una sorta di tassa nascosta, occulta, compresa tra i 2 e 3 miliardi di euro l'anno che in qualche modo sono necessari per sostituire quello che il suolo prima ci dava gratuitamente. In controtendenza c'è una città come Torino. Sì, Torino è l'unica grande città dove noi abbiamo registrato una riduzione del consumo di suolo, quindi per la prima volta da quando abbiamo avviato il rilevamento, una città importante riduce la superficie artificiale. In questo caso abbiamo avuto una riduzione di 7 ettari, comunque significativa. significativo in un anno, sono interventi dovuti fondamentalmente alla sfondatura delle torrenti d'ora in ambito urbano e al ripristino di alcune aree di cantiere nella zona dello stadio. Sono segnali importanti che speriamo possano essere confermati nei prossimi anni. È chiaro che un dato su base annuale è ancora presto per definire, per capire se effettivamente è in atto una revisione, una politica di riduzione complessiva del consumo di suolo che servirebbe estendere a tutte le città, ma sono sicuramente segnali positivi. Oltre alle demolizioni e alle rinaturalizzazioni, quali possono essere le modalità di recupero? Sicuramente le modalità di recupero sono legate a interventi spesso onerosi e complicati di ripristino di aree artificiali, ma spesso questo può avvenire in aree dismesse, in aree di cantiere, in aree comunque dove il suolo non è stato utilizzato, ma è al momento in qualche modo una situazione di degrado e di non utilizzo. Ovviamente la prima priorità dovrebbe essere non tanto quello di demolire e ripristinare il suolo, ma quello di evitare di consumare nuovo suolo agricolo e naturale. Questa è sicuramente la linea d'azione prioritaria, perché comunque, oltre alle difficoltà tecniche ed economiche di ripristino, un suolo in realtà non acquisisce, non ritorna mai alla sua funzione originaria. Anche quando ripristinato, comunque ci vorranno centinaia di anni per ripristinare quei servizi ecosistemici che il suolo ci dava quando era naturale. Ricordiamo il rapporto ISPRA 2019 sul consumo di suolo in Italia. Un saluto e un ringraziamento a Michele Munafò, che ne è il curatore. Michele, in chiusura ci dai tutti i riferimenti per saperne di più? Sì, tutti i riferimenti sono rintracciabili sul sito dell'ISPRA www.ispraambiente.it. Lì è possibile scaricare il rapporto, la banca dati con tutti i dati, la cartografia per visualizzare tutte le trasformazioni anche a livello comunale e subcomunale. Un saluto e a presto! Grazie, a presto!